È indiscutibile che il Dio dei cristiani regni e faccia quello che gli piace, Salmo 115.3. Ma come ogni verità, anche questa deve essere compresa in armonia con altre verità uguali e opposte. Non contrarie, altrimenti si cadrebbe inevitabilmente in estremismi e eresie. In merito all'argomento della sovranità di Dio, molto probabilmente, l'espressione più forte e categorica la si trova nella lettera ai Romani, così espressa: Dio fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Romani 9.1.2.18. Un'affermazione che non lascia dubbi sull'operato di Dio, un agire completamente indipendente dalla volontà dell'uomo, un modo di procedere solo sulla base della sua volontà. Questa è una verità lapalissiana e indiscutibile, che non può essere negata da nessun'altra verità, ma può essere compresa nel modo giusto tenendo conto altri fattori. Uno di questi è tenere in considerazione il contesto nel quale la verità viene espressa, perché altrimenti, come ogni frase presa fuori dal suo insieme, diventerebbe un pretesto per proferire ciò che si vuole. Purtroppo fare dire ad un'affermazione ciò che non è il suo senso intenzionale è uso comune e, se non avviene per un atto di disonestà, il più delle volte è originato dai nostri rispettivi presupposti. Ammettere di avere dei presupposti non è pari a confessare una colpa, perché nessuno ne è esente. Il punto sta, piuttosto, nella genuinità di tali congetture e nel gestirli in modo appropriato. E per non cadere in errore, quindi, è indispensabile leggere tutto il contesto nel quale si trova questa suddetta affermazione della sovranità assoluta di Dio. L'Apostolo Paolo, portando come esempio Rebecca, la moglie di Isacco, la quale aveva concepito due gemelli, presenta la sovranità di Dio in merito all'elezione del popolo di Israele, in questo modo, lucam poiadi. Infatti, quando non erano ancora nati i figli e non avevano fatto bene o male alcuno, affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio secondo l'elezione, e non a motivo delle opere, ma per colui che chiama, le fu detto: il maggiore servirà al minore, come sta scritto: io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Che diremo dunque? C. È ingiustizia presso Dio? Così non sia. Egli dice infatti a Mosè: io avrò misericordia di chi avrò misericordia, e avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Dice infatti la scrittura al Faraone: proprio per questo ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza, e affinché il mio nome sia proclamato in tutta la terra. Così egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Romani 9.1118. E, fuori discussione, il fatto che Dio elegga Giacobbe e non Esau prima della loro nascita, per essere l'erede delle promesse fatte ad Abramo e a Isacco, perché l'elezione fosse sicura, non essendo a motivo di un cammino più o meno giusto davanti a Dio. A questo punto Paolo, con la sua solita sensibilità, previene l'eventuale e forse inevitabile reazione di chi legge o ascolta, il quale potrebbe ritenere Dio ingiusto a causa della scelta di uno piuttosto che un altro. In definitiva, Dio viene messo sul banco degli imputati e viene giudicato riguardo al suo operato, viene interrogato sul motivo delle sue scelte, viene discussa la sua libertà di fare quello che vuole. Un atteggiamento molto comune anche oggi, quando gli uomini alzano il pugno verso il cielo e si chiedono il perché di certi avvenimenti con indignazione, o vorrebbero parlare direttamente con Dio per metterlo, come è stato per Gesù, sotto processo e condannarlo. Non è forse Dio ingiusto nello scegliere solo una certa persona per un compito e rifiutarne un'altra? Una domanda che potrebbe sembrare saggia. Ma se Dio scegliesse tutti alla stessa maniera, non ci sarebbero bianchi e neri, poveri e ricchi? Chi comanda e chi ubbidisce? Nessuno sarebbe eletto, perché tutti sarebbero scelti. Questa volta, Paolo non fa un ragionamento filosofico per avvalorare ciò che sta dicendo e preferisce citare ciò che Dio stesso dice a Mosè, e cioè che fa misericordia a chi vorrà fare misericordia. Esodo 33.19. Quindi, continua Paolo. Per dimostrare l'assoluta sovranità di Dio delle sue distinzioni, le sue scelte non sono dettate da chi vuole o da chi si dà da fare, ma sono fatte in base alla sua misericordia o compassione. Poiché un atteggiamento del genere potrebbe suscitare un certo sdegno nell'uomo, l'Apostolo Paolo rafforza il suo ragionamento con una sentenza che l'Eterno stesso esprime al Faraone. Perché questo rifiutava di ubbidire a Dio. Proprio per questo ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza, e affinché il mio nome sia proclamato in tutta la terra. Il discorso di Dio è questo. Nella mia potenza e sovranità io potevo benissimo cancellarti dalla faccia della terra, ma ho scelto di lasciarti in vita, per dimostrare la mia potenza e la mia gloria. Si capisce benissimo che la scelta di Dio non è riferita alla salvezza dalla perdizione del Faraone. Anche perché questo rimane quello che era, cioè incredulo. Ma la decisione di Dio è quella di non voler farlo morire subito e risparmiarlo, per un altro momento. Infatti il Faraone morì poco dopo, nella traversata del Mar Rosso, Salmo 136.15. E solo con questa premessa e in questo contesto che si possono comprendere correttamente le parole di Dio, così egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Quel così non deve sfuggire. Infatti, Paolo, dopo aver dimostrato che Dio fa misericordia a chi vuole fare misericordia, con l'esempio del Faraone, che non ha ucciso perché la sua gloria e la sua potenza fossero messe in evidenza, ora aggiunge un altro particolare, e cioè indurisce chi vuole. Infatti, il Faraone, dopo aver per ben 6 volte indurito il suo cuore davanti alla potenza di Dio, Esodo 7.1-3-22, 8.15-19-32 e 9.7, ricevette da Dio stesso un indurimento del proprio cuore, Esodo 9.12, perché la potenza di Dio fosse mostrata nel Faraone e affinché il suo nome sia proclamato in tutta la terra. Il Faraone, in seguito, indurì per altre 2 volte il suo cuore, Esodo 9.34-35, così Dio nella sua sovranità glielo indurì per altre 4 volte, Esodo 10.20-27-11.10-14.8. Ha forse sbagliato? Dio non è libero. Dio di fare quello che vuole, certo che è libero di fare quello che vuole. Soprattutto, quando un uomo rifiuta di credere di sua spontanea volontà all'opera evidente di Dio. Visto che il Faraone ha fatto quello che voleva, Dio ha deciso di indurirgli il cuore, allo scopo di evidenziare la propria gloria e tramandarla di generazione in generazione. Quindi, il contesto della sentenza di Dio di fare misericordia a chi vuole e di indurire chi vuole non si riferisce alla salvezza dalla perdizione eterna o a una elezione alla condanna eterna, ma si riferisce all'atteggiamento che Dio tiene nei confronti delle sue creature mentre vivono su questa terra. In effetti, proprio perché Dio fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole, ci preclude la possibilità di comprendere pienamente le sue vie, come nel caso di chi ha tentato il suicidio più volte ma senza riuscirci, mentre altri sono morti al primo tentativo. Difficile capire il perché, come difficile capire perché ci sia chi passa più volte con il semaforo rosso senza subirne conseguenze, mentre un altro, il quale lo fa per la prima e magari anche ultima volta, provoca un incidente. Quante cose incomprensibili ci sono, quanti avvenimenti contrastanti. Perché ci è chi compie un piccolo furto e viene subito colto in fallo, mentre un altro riesce ad arricchirsi per anni con continui furti e, se viene colto in fallo, è magari soltanto alla fine della sua vita. Che risposta possiamo dare? Per me CN è una sola. Dio interviene con chi vuole e quando vuole. E questa, la sovranità di Dio che dobbiamo accettare, e non una sovranità dispotica a 360 gradi, nella quale l'Eterno Dio fa quello che gli pare, senza tener conto per nulla della presenza e della libertà dell'uomo, se la Bibbia è il libro nel quale Dio mostra come interviene nella storia dell'umanità, notiamo dalla prima pagina fino all'ultima come egli renda e ritenga responsabile l'uomo per le sue decisioni. se tutto si svolgesse sotto ad una sovrana e irriducibile assoluta volontà di Dio, non avrebbe senso parlare della responsabilità dell'uomo, come non ha nessuna responsabilità un robot che compie i movimenti automatici. Nel contesto di questa libertà dell'uomo di fare il bene o il male, nel contesto del grido di Gesù, Gerusalemme, Gerusalemme che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, ma voi non avete voluto. Luca 13.14. Dio fa misericordia a chi vuole e interviene quando vuole. Alcuni increduli sono stati colpiti subito, altri dopo molto tempo, altri ancora lo sono stati a causa del comportamento dei loro antenati. Tutto questo è evidente. Ma forse il problema della sovranità di Dio per alcuni rimane, perché se applicata alla salvezza o alla perdizione eterna dell'uomo, rimangono alcuni interrogativi. Tutto nasce dal presupposto della totale depravazione dell'uomo, il quale, meno secondo alcuni meno, sarebbe totalmente incapace di scegliere qualunque bene e, di conseguenza, la sua salvezza non può che essere totalmente scelta e decisa da Dio. In questo modo, sempre secondo alcuni, la salvezza è per elezione e non per fede, al punto che, come Maurice Roberts, vedi passaggio numero 1, 2004, affermano, dichiarare, come alcuni hanno fatto, che per essere salvati dobbiamo credere, è un'assurdità. È vero che anche il calvinismo insegna una salvezza per fede, ma bisogna capire cosa intende nell'esporre tale dottrina. Faccio un esempio. Prendiamo un foglio bianco e tracciamo una grande linea da cima a fondo, che rappresenta la fede. Nella parte destra del foglio disegneremo tanti puntini con i quali rappresentiamo gli uomini, i quali, per poter passare nella parte sinistra del foglio, la quale rappresenta la salvezza, dovranno varcare la linea. Tutti gli uomini, per poter andare dalla parte destra alla sinistra, dovranno per forza di cose attraversare la linea la quale raffigura la fede. Ma chi passerà dalla parte opposta? Secondo la dottrina dei calvinisti e riformati, solo quelli scelti. Ed per questo che alcuni trovano assurdo che per essere salvati si debba credere. Ma se è vero che la salvezza è totalmente opera di Dio, è anche vero che Dio tiene con Nuovo Testamento e vuole LLL a decisione dell'uomo, Deuteronomio 30.19. Come cristiano, insegno che Dio fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole, ma altresì testimonio che Dio vuole che tutti gli uomini siano Salvantico Testamento 1 Timoteo 2.4, che il suo amore non è selettivo e per questo a tutti ha già perdonato i peccati. 2 Corinzi 5.1819. Sta a noi scegliere tale perdono. Aprile 2010. Ellero.